Cari fratelli e sorelle, nelle ultime due catechesi abbiamo fatto una escursione alle chiese di Oriente di lingua semitica, meditando su Afraate il Perso e Sant'Efrem Siro. Oggi ritorniamo al mondo latino, al nord dell'Impero Romano, con San Cromazio di Aquileia. Questo vescovo, San Cromazio, svolse il suo ministero, come detto, nell'antica chiesa di Aquileia, fervente centro di vita cristiana situato nella decima regione dell'Impero Romano, la Venezia e Istria. Nel 388, quando Cromazio salì sulla cattedra episcopale della città, la comunità cristiana locale aveva già maturato una storia gloriosa di fedeltà al Vangelo. Tra la metà del III e i primi anni del IV secolo, le persecuzioni di Decio, di Valeriano e di Diocleziano avevano mietuto un gran numero di martiri. Inoltre, la chiesa di Aquileia si era misurata, come tante altre chiese del tempo, con la minaccia dell'eresia ariana che non riconobbe la divinità di Gesù. Lo stesso Atanasio, l'alfiere della ortodossia cristologica, che gli ariani avevano cacciato in esilio dall'Egitto, per qualche tempo trovò rifugio ad Aquileia. Sotto la guida dei suoi vescovi, la comunità cristiana resistette alle insidie dell'eresia e rinsaldò la propria adesione alla fede cattolica. Nel settembre del 381 Aquileia fu sede di un sinodo che vide convenire circa 35 vescovi dalle coste dell'Africa, dalla valle del Rodano e da tutta la decima regione. Il sinodo si proponeva di debellare gli ultimi residui dell'arianismo in Occidente. A questo concilio prese parte il presbitero Cromazio in qualità di esperto del suo vescovo Valeriano. Gli anni intorno a questo sinodo rappresentano l'età d'oro della comunità aquileiese. San Cirolamo, che era nativo dalla Dalmazia, e Rufino di Concordia parlano con nostalgia del loro soggiorno ad Aquileia, in quella specie di cenacolo teologico che Cirolamo non esita a definire tamquam corus beatorum, come un coro di beati. In questo cenacolo, che ricorda per alcuni aspetti le esperienze comunitarie condotte da Eusebio di Vercelli e da Agostino, si formarono le più notevoli personalità delle chiese dell'Alto Adriatico. Ma già nella sua famiglia Cromazio aveva imparato a conoscere e ad amare Cristo. Ce ne parla con termini pieni di ammirazione lo stesso Cirolamo, che paragona la madre di Cromazio alla profetessa Anna, le sue due sorelle alle vergini prudenti della parabola evangelica, Cromazio stesso e il suo fratello Eusebio al giovane Samuele. Di Cromazio e di Eusebio Cirolamo scrive: il beato Cromazio e il santo Eusebio erano fratelli per il vincolo del sangue, non meno che per l'identità degli ideali. Cromazio era nato ad Aquileia verso il 345, venne ordinato diacono e poi presbitero, infine fu eletto pastore di quella chiesa. Ricevuta la consecrazione episcopale dal vescovo Ambrogio, si dedicò con coraggio ed energia a un compito immane per la vastità del territorio affidato alle sue cure pastorali. La giurisdizione ecclesiastica di Aquileia, infatti, si estendeva dai territori attuali della Svizzera, Baviera, Austria e Slovenia, giungendo fino all'Ungheria. Quanto Cromazio fosse conosciuto e stimato nella chiesa del suo tempo, lo si può arguire da un episodio della vita di San Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, quando Crisostomo fu esiliato dalla sua sede, scrisse 3 lettere a quelli che egli riteneva i più importanti vescovi d'Occidente per ottenerle l'appoggio presso gli imperatori. Una lettera la scrisse al vescovo di Roma, la seconda al vescovo di Milano, la terza al vescovo di Aquileia, Cromazio appunto. Anche per Crisostomo quelli erano tempi difficili a motivi della precaria situazione politica. Molto probabilmente Cromazio morì in esilio a Grado mentre cercava di scampare alle scorrerie dei barbari nello stesso anno 407, nel quale moriva anche Crisostomo. Quanto a prestigio e importanza, quella era la 4ª città della penisola italiana e la 9ª dell'impero. Anche per questo motivo essa attirava le mire dei Goti e degli Unni. Oltre a causare gravi lutti e distruzioni, le invasioni di questi popoli compromisero gravemente la trasmissione delle opere dei padri conservate nella biblioteca episcopale ricca di codici. Andarono dispersi anche gli scritti di San Cromazio, che finirono qua e là, furono spesso attribuiti ad altri autori, a Giovanni Crisostomo, ad Ambrogio, anche ad Agostino e finalmente anche a Gerolamo, che Cromazio aveva aiutato molto nella revisione del testo e nella traduzione latina della Bibbia. La riscoperta di gran parte dell'opera di Cromazio è dovuta a felici e fortunose vicende che hanno consentito solo in anni recenti di ricostruire un corpus di scritti abbastanza consistente. Più di una 40ina di sermoni, dei quali una decina frammentari, e oltre 60 trattati di commento al Vangelo di San Matteo. Cromazio fu sapiente maestro e zelante pastore. Il suo primo e principale impegno fu quello di porsi in ascolto della parola, per essere capace di farsene poi annunciatore. Nel suo insegnamento egli parte sempre dalla parola di Dio e ad essa sempre ritorna. Alcune tematiche gli sono particolarmente care, anzitutto il mistero trinitario che egli contempla nella sua rivelazione lungo tutta la storia della salvezza. Poi il tema dello Spirito Santo. Cromazio richiama costantemente i fedeli alla presenza e all'azione della terza persona della Santissima Trinità nella vita della Chiesa. Ma con particolare insistenza il Santo Vescovo ritorna sul mistero di Cristo. Il Verbo incarnato è vero Dio e vero uomo, ha assunto integralmente l'umanità per farle dono della propria divinità. Queste verità ribadite con insistenza anche in funzione anti-ariana approderanno una 50ina di anni più tardi alla definizione del Concilio di Calcedonia. La forte sottolineatura della natura umana di Cristo conduce Cromazio a parlare della Vergine Maria. La sua dottrina mariologica è tersa e precisa. A lui dobbiamo alcune suggestive descrizioni della Vergine Santissima. Maria, così dice, è la Vergine evangelica capace di accogliere Dio. È la pecorella immacolata e inviolata che ha generato l'agnello ammantato di porpora. Il vescovo di Aquileia mette spesso la Vergine in relazione con la Chiesa. Entrambe, infatti, sono Vergine e Madre. L'ecclesiologia di Cromazio è sviluppata soprattutto nel suo commento a Matteo. Ecco almeno alcuni concetti ricorrenti. La Chiesa è unica, è nata dal sangue di Cristo, è veste preziosa intessuta dallo Spirito Santo. La Chiesa è là dove si annuncia che Cristo è nato dalla Vergine, dove fiorisce la fraternità e la concordia. Un'immagine a cui Cromazio è particolarmente affezionato è quella della nave sul mare in tempesta, e sui tempi erano tempi della tempesta come abbiamo sentito. Non c'è dubbio, afferma, che questa nave rappresenta la Chiesa. Da zelante pastore qual è, Cromazio sa parlare alla sua gente con linguaggio fresco, colorito e incisivo. Pur non ignorando il perfetto cursus latino, preferisce, come anche Sant'Agostino, ricorrere al linguaggio popolare, ricco di immagini facilmente comprensibili. Così, ad esempio, prendendo spunto dal mare, egli mette a confronto da una parte la pesca naturale di pesci, che tirati a riva muoiono, e dall'altra la predicazione evangelica, grazie alle quali gli uomini vengono tratti in salvo dalle acque limacciose della morte e introdotti alla vera vita. Sempre nell'ottica del buon pastore, in un periodo burrascoso come il suo, funestato dalle scorrerie dei barbari, egli sa mettersi a fianco dei fedeli per confrontarli e per aprirne l'anima alla fiducia in Dio che non abbandona mai i suoi figli. Raccogliamo infine, a conclusione di questa riflessione, un'esortazione di Cromazio, ancora oggi perfettamente valida, e concludo con questa preghiera. Preghiamo il Signore con tutto il cuore e con tutta la fede. Preghiamolo di liberarci da ogni incursione dei nemici, da ogni timore degli avversari. Non guardi i nostri meriti, ma la sua misericordia. Lui, che anche in passato si degnò di liberare i figli di Israele non per i loro meriti, ma per la sua misericordia, ci protegga con il solito amore misericordioso e operi per noi ciò che il santo Mosè disse ai figli di Israele: il Signore combatterà in vostra difesa e voi starete in silenzio. È Lui che combatte, è Dio che riporta la vittoria alla fine. E affinché si degni di farlo, dobbiamo pregare il più possibile. Egli stesso, infatti, dice per bocca del profeta: invocami nel giorno della tribolazione, io ti libererò e tu mi darai gloria. Così proprio nell'inizio del tempo dell'Avvento, San Cromazio ci dice: Avvento è tempo di preghiera. E ci dice: entrate in contatto col Dio. Dio ci conosce, conosce me, conosce ognuno di noi, mi vuol bene, non mi abbandona. In questa fiducia andiamo avanti nel tempo di Avvento. Buon Avvento a tutti voi!